Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per la cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima, alla medesima ora. Buona giornata.